visto Pardo nella corsetta di prima? Com'è, in forma? È un po' appesantito, però ho visto bene, dai. Ma sto a dieta, sta a dieta, vabbè. Sta a dieta. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti ragazzi, anche oggi, buon venerdì a tutti naturalmente, anche oggi in una settimana così intensa in cui si corre a rotta di collo sportivamente parlando, anche se Pardo pare un po' affaticato, riunione di famiglia, Giovanni Capuano, ciao buongiorno. Carlo. Pardo arriva tra poco. Affaticato. Affaticato, speriamo non di corsa, comunque arriva al telefono. 800 24 00 24 per intervenire. Venerdì di vigilia di un sacco di eventi non solo calcistici. Il campionato propone uno dei più classici testa coda, un grande classico del rottismo calcistico, squadre di testa che giocano con le ultime della classe, la classica buccia di banana che può capitare sotto i piedi di chiunque. Pensa, no. Giocano contro le squadre di Lotito. Giocano contro Frosinone e Campi. Frosinone, pensa che storia meravigliosa sarebbe se una delle squadre di Lotito, una qualsiasi, non stiamo qui a dire quale, mettesse un granellino di sabbia, ecco, nei sogni scudetto. Pensa che storia. Giorgio, sì. De Luca è convinto, non contento. Ci credo tanto. Napoli, nemmeno io. Napoli, Carpi, Frosinone, Juventus, ma poi c'è anche Verona Inter, ultima contro quarta, Milan Udinese, Roma Sampdoria. Insomma, Bologna-Fiorentina potrebbe essere una domenica interlocutoria, ma spesso capita che nelle domeniche interlocutorie, soprattutto prima dei big match, qualcosa succeda. Vediamo. Dicevo, non c'è solo il calcio, perché, e ne parleremo, c'è anche la palla più allungata, quella bislunga del rugby, con l'inizio delle Sei Nazioni, l'Italia che gioca in Francia e per l'occasione riapre, dopo i fatti di novembre, le porte dello Stade de France. C'è il Super Bowl, nella notte di domenica si gioca in California, Denver Broncos della leggenda Peyton Manning contro i Carolina Panthers del nuovo fenomeno Newton. C'è il tennis con il primo turno di Fed Cup e più tardi avremo ospite una regina del tennis italiano. Insomma, ci sono un sacco di cose di cui parlare e lo facciamo volentieri. Sentiamo anche qualche voce, giusto per darvi degli spunti, sulla corsa scudetto. Sta parlando tutti, lo ha fatto anche Lippi, CT, ex campione del mondo. Per l'esito finale penso che sia un po' troppo presto. Dopo lo scontro diretto a Napoli, io vi sono ancora talmente tante partite, perciò non potrà essere in nessun modo decisivo. Io faccio una battuta sempre in questi giorni, no? E dico che la Juve quest'anno, dopo quattro scudetti vinti, ha detto: ok, quest'anno vi do un girone d'andata di vantaggio, vediamo se siete capaci di approfittare. E l'unico che ne ha approfittato è stato il Napoli, e adesso è tornata la Juve, perché tutti pensavano che sarebbe tornata e nessuno credeva che sarebbe stata tagliata fuori. Così parlò Lippi, sai che ha allenato entrambe le squadre, prima il Napoli e poi la Juventus. Lippi, a proposito della sua esperienza napoletana, racconta sempre di quando doveva scegliere la casa, la sai questa? No. Doveva scegliere la casa e quelli del Napoli gli hanno fatto vedere diverse case piuttosto grandi, eccetera. Ha detto: no, io voglio una casa che sia piccola ma che dia sul mare. Allora gli hanno trovato questo appartamento che dava sul mare e lui scendeva con la canoa, la metteva in acqua e andava a farsi i giri nel golfo. Chiellini. Noi preferiamo vincere con tanti punti di vantaggio e con qualche giornata anticipo se possiamo, però l'importante è vincere, punto. Non ci teniamo a arrivare all'ultima giornata, se... Beh, credo. Sì, l'importante è vincere, anche se squadre di Lotito, permettendo il blitz che ha fatto il Napoli a Roma con la Lazio, l'abbiamo detto ieri, in un certo senso ha alleggerito e molto la pressione sul Napoli, perché tu sai, se vai là due punti avanti... puoi anche perdere, comunque restare praticamente appaiato alla Juventus e giocartela nelle ultime 14. Diverso sarebbe stato se il Napoli fosse andato a Torino o pari punti con la Juve o addirittura già dietro in classifica. Psicologicamente quel confronto diretto avrebbe pesato tonnellate, però ha ragione Chiellini, perché poi tutti fanno gli esteti del bel gioco. Secondo me Sarri, che è uno che il Napoli lo fa giocare bene, credo si accontenterebbe anche di uno 0-0 senza tiri in porta. Ma certo, firmerebbe subito. Dopo mesi in cui si è parlato del bel gioco, firmerebbe anche per... per uno 0-0. Ma questo è evidente, soprattutto se, come io credo, arriverà là con due punti di vantaggio sulla Juve. E comunque sono d'accordo con Lippi sul fatto che decisivo non sarà il confronto che si gioca la sera della finale del Festival di Sanremo. È il giorno prima di San Valentino, signori. Altre voci, c'è Costa Curta che non le ha mandate a dire né a Galliani né a Balotelli. Sentiamo cosa ha detto Billy Costa Curta su Galliani. Il problema secondo me lì è il confronto. Lì c'è Galliani che decide e non credo ci sia confronto con nessuno sotto l'aspetto tecnico. Ecco, io credo che lì ci debba sempre essere, ma non solo lì, un confronto per capire bene cosa può servire. Lì invece decide solo lui. Lì decide solo lui, nessun confronto, non se ne parla. Sempre Costa Curta su Mario Balotelli, una cosa che abbiamo già sentito dire a diversi dei protagonisti di quel Milan. Arrigo Sacchi ha detto: Balotelli nel mio Milan non avrebbe mai giocato. No, sono d'accordo. No, non sarebbe neanche entrato nello spogliatoio. Gattuso è arrivato da noi e non era uno da Milan, lo dico molto sinceramente. Intemperante. Bravissimo. Dopo, perché è talmente intelligente, capì e si adeguò. Io non so se Balotelli avrebbe fatto lo stesso. Forse non sarebbe però neanche entrato. Poverino, Ma forse entrando in quello spogliatoio lì sarebbe cambiato. Sarebbe stato messo in riga, come è accaduto con Gattuso e con molti altri. Sì, e come in parte gli è successo da altre parti, perché non è che Balotelli non è mai stato in spogliatoi importanti. All'inizio della carriera lo è stato ed era un giocatore ovviamente giovane, col carattere che ha, ma in campo decisivo. In Inghilterra, al Manchester, è entrato in uno spogliatoio che aveva giocatori importanti ed è stato un giocatore importante. In nazionale, comunque, alla fine, noi ci ricordiamo anche all'Europeo, 4 anni fa, ha fatto bene. Magari questo Milan non è nemmeno in grado di stimolarlo, certo, a livello di personalità. Poi soprattutto in quel perché Milan, perché non è l'unico Balotelli di questo, no, Milan che non entrerebbe nello spogliatoio del Milan di Costa Curta. Assolutamente, ma questo è uno un po' dei segreti di Pulcinella, di quel Milan e di tutte le grandi squadre. Tu arrivavi lì, ti prendevano Maldini, Baresi, Costa Curta. Vieni qui che ti faccio vedere il beccacino, ti spiego due cosette su come si vive dentro qui. E ovviamente o ti allineavi o venivi sputato fuori dallo spogliatoio in tempo reale. Questo è successo diverse volte con molti giocatori. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Sì, ha fatto una cosa straordinaria, perché ha sfatato uno dei luoghi più comuni di sempre, che ci vuole un sacco di tempo per un allenatore per trasmettere certe cose alla squadra. Lui l'ha fatto in 3 mesi, sia cose tecnico-tattiche che cose psicologiche. Avrete intuito, parlava di Sarri e del Napoli. Saluto Nano Galderisi, ciao Beppe. Convocato, presente. Grandissimo, molto bene. Molto bene, no, stavamo discutendo io e Giovanni Capuano di questa giornata, il classico testa coda che spesso arriva prima delle grandi partite e ogni tanto una buccia di banana la trovi, e Giovanni faceva notare: sarebbe curioso se fosse una delle due squadre di Lotito, sai che cosa intendo, Frosinone e Carpi, a mettere qualche granello di sabbia nel motore del Napoli o della Juventus. Non credo, No, non credo sia impossibile in questo momento, perché credo che queste due squadre stiano veramente dimostrando tutta la loro forza su tutti i punti di vista. Ho apprezzato molto quello che ha detto Marcello Lippi, perché è la pura verità, insomma, cioè chi riesce a conquistare cuore, anima dei giocatori di uno spogliatoio, ma non solo perché è simpatico o parla bene, ma perché sa di calcio e i giocatori lo capiscono al volo, perciò se in poco tempo è riuscito a fare cose del genere, se la Juventus ha ritrovato questa forza così straripante ovunque, contro chiunque, credo che sono due passaggi fondamentali, anche se il calcio ci insegna che qualche volta proprio le partite meno sono quelle che ti danno le delusioni maggiori. Credo anche però che il Napoli e la Juventus sanno a cosa vanno incontro. Cioè, perché sono mature. Sono mature, certo, per la Juve in modo particolare, esatto, per tanti motivi. Il Napoli, secondo me, invece, per la bellezza e per la forza, per l'energia che ha, e per le bocche di fuoco che ha trovato in gran spolvero, ma non vengono per caso, sono state aiutate, supportate, costruite da un lavoro di spessore. Chi mancherà di più tra Mandzukic e Khedira in queste settimane alla Juve? Perché poi lì è il tema, il dubbio viene quando si guarda la lista degli infortunati, tu la guardi, pensi a che cosa ha davanti la Juventus e ti viene in mente che potrebbe pagare qualcosa. Noi una settimana fa eravamo qui a parlare con meraviglia di quello che la Juventus ha fatto a Verona col Chievo, poi è arrivata Juve-Genoa e per una volta la Juventus ha giocato un po' sotto ritmo, e allora ti viene il dubbio che ci sia qualche crepa e provi a capire chi, ad esempio sugli infortuni, chi manca di più secondo me è Khedira, perché un conto è quel centrocampo lì e un conto è con Padoin e altri. Tanto io saluto anche Pierluigi Pardo, ovviamente. Ciao Pier. Ciao Pier. Ciao. Sì, credo che credo che Morata in questo momento qui dia ampie garanzie, perciò anche se caratteristiche sono completamente diverse, credo che comunque la Juventus lì davanti ha trovato entusiasmo, ma soprattutto autostima in tutto e per tutto, da Dybala che sta facendo cose meravigliose al gol ad ora in questo momento della Juventus, che è proprio Morata. Khedira secondo me ha le caratteristiche ideali per far male e per essere un giocatore importante, anche se ci vorrebbe un po' più di continuità, e forse tra i due è quello che potrebbe mancare di più, proprio per qualità e quantità, a un centrocampo che è molto forte ma che potrebbe essere più forte. Certo, sei d'accordo Pierluigi con Nano Galdiani? Sì, sono d'accordo perché credo che la Juve abbia visto sbloccarsi appunto Morata nel momento in cui era più importante che questo succedesse, insomma. E poi sai, la stagione è anche questo, si può pensare anche che ci sia anche un elemento imponderabile, insomma, nel momento nel quale Morata faticava di più, Mandžukić ha fatto pienamente il suo, adesso che Mandžukić è fuori, Morata subito si è fatto trovare pronto, quindi mi sembra molto molto incoraggiante tutto questo. Khedira è un giocatore che per caratteristiche è più difficilmente sostituibile in mezzo al campo, perché è un giocatore di grande inserimento, ha dei tempi fantastici, ha moltissima esperienza, quindi in un momento come questo secondo me è un giocatore che manca tanto, insomma, appunto con caratteristiche diverse, ma Morata, o meglio Mandžukić, è più facilmente sostituibile. Sì, intanto che si era parlato sul mercato della possibilità per la Juventus di trovare un backup in quel ruolo, visto che Khedira purtroppo è un giocatore che non gode di eccellente salute. Questo è un grande problema, questo è un grande problema, perché per tutti gli impegni che ha la Juventus, adesso arriva quello clou e che secondo me è possibile. Quello col Bayern, dici? Sì, è possibile? Io credo proprio di sì. In questo momento, secondo me, la Juventus ha un qualcosa in più. Sento un annuncio addirittura più del Bayern. Attenzione, sai perché? Secondo me, da quello che annuso, da quello che si legge, da quello che si sente, insomma, non è che stiano passando un momento di grande serenità lì in Germania, con tutto il rispetto per la grande politica. Però Nanu, dire che la Juve ha qualcosa più del Bayern oggi significa allargare le prospettive di questa squadra da subito. Cioè, questa è una squadra che giovane, lo dice spesso Allegri e ha ragione, forte ma giovane. Dire che ha più possibilità del Bayern già oggi significa che questa è una squadra che già oggi può arrivare a Milano e vincere la Coppa. Io ho azzardato questo termine perché credo che all'interno della Juventus in questo momento hanno tutti questa convinzione di potercela fare, per quello che stanno dando, per come sta crescendo questa Juventus e per le qualità e per come stanno raccogliendo concretamente tutti gli sforzi che hanno fatto in questo periodo, ed è una squadra in salute. Dall'altra parte sembra che qualche problema ci sia, il fatto che salti un allenatore a gennaio, il fatto che qualcuno viene accusato all'interno dello spogliatoio, che ci sono problemi, insomma tutte quelle robe che non aiutano a unire le forze e tirar fuori il meglio, anche se potenzialmente questa è una squadra che può giocare come vuole e può vincere tutto, però non incontra una squadra battibile facilmente, perché la Juventus in questo momento la devi battere, ma la devi battere essendo più forte anche fisicamente. Spifferi che escono dallo spogliatoio del Bayern, ma so che abbiamo sentito nei giorni scorsi, tra quelli che parlano e sparlano delle dinamiche dello spogliatoio, Vidal che fa i capricci con la bottiglia e lascia la busta paga aperta in spogliatoio, consentendo ai compagni di vedere la montagna di soldi che guadagna, e insomma spifferi che escono di lì, e questo lo sappiamo. Sì, ma parlo una cosa su Khedira, che se vuoi è banale, che chiaramente i problemi fisici di Khedira sono sono un problema, certamente, però è anche vero che Chiedira, se non avesse avuto problemi fisici, probabilmente doveva pagare ancora 30 Real, milioni, dici? No? Sì, oppure rimane ancora Real. Cioè, è chiaro che la Juve ha fatto una scommessa, che secondo me ad oggi è una scommessa assolutamente riuscita, però insomma è evidente che i problemi fisici rappresentano la controindicazione che ha consentito di prenderlo a certe condizioni. Non divido. Beppe, un'ultima cosa, credi che la vittoria dell'Inter sul Chievo sia un segnale di inversione di tendenza? Ci voleva sicuramente, perché così l'aria che tira Milano da parte della sponda interista è completamente diversa da quella milanista. Adesso c'è un momento di grave difficoltà di risultati, di un Mancini così nervoso non l'avevo mai visto anch'io, e se è nervoso vuol dire che ha i suoi motivi, però è anche vero che come uomo di calcio e come personalità e per la gestione di momenti del genere lui forse potrebbe essere quello ancora importante, e i risultati in questo momento aiutano più delle belle prestazioni, perché l'Inter non ha mai giocato un grande calcio ma ha sempre portato concretezza all'interno del suo spogliatoio. E questa vittoria secondo me può essere importante per riprendere il percorso, che sarà comunque un percorso molto diverso da quello che era prima, perché non credo che l'Inter possa fare come ha fatto la Juventus o come ha fatto Napoli, o come non può vincere 5-6-7 partite di seguito. Questa è la mia idea. Non potrà, credo, fare nemmeno come nel girone d'andata, in cui comunque soprattutto all'inizio ha giocato libera da tante pressioni. Basti vedere gli ultimi 5 minuti della partita col Chievo, che sono da psicanalizzare. Cioè, tu non puoi dominare per 85 minuti una partita contro una squadra nettamente inferiore e che te lo dimostra sul campo, e poi siccome sei 1-0 e ti ricordi che col Sassuolo hai perso il 93esimo, col Carpi hai preso il pareggio al 92esimo, ti fai assediare in area di rigore. A me gli ultimi due minuti di Inter Chievo hanno ricordato gli ultimi due minuti dell'Inter di Mourinho al Camp Nou contro il Barcellona, solo che quella era la semifinale di Champions League contro il Messi e quella gente lì, con tutto il rispetto per Pellissier. Però il momento delicatissimo, forse da comprendere. È molto delicato, e credo che questo sia il passaggio fondamentale del gruppo. Io avevo annusato che al di là dei risultati all'inizio dell'anno i risultati venivano perché c'era comunque una grande stima nei confronti dell'allenatore e c'era un'unione di intenti importante, cosa che in questo momento qua, grazie purtroppo ai risultati che negli ultimi periodi non sono venuti, qualche cosina poi si sta scricchiolando. Sì. E dato che l'Inter non ha mai avuto, secondo me, una forza, cioè la difficoltà dell'Inter non viene solo partita per partita, ma viene anche durante una partita, cosa che non succede alle grandi squadre. Il Napoli può prendere gol, la Fiorentina può prendere gol, però la propria identità è bella, chiara, limpida, precisa. Sì. E l'Inter viaggia un pochettino su spunti, su iniziative, su forza, su voglia di lottare, conquistarsi il mezzo, conquistarsi il pallone, e questo qualche volta ti fa benefici e qualche volta no. Perciò tirarsi sulle manichette. Grazie Nanu. E un abbraccio a tutti. Ciao Nanu Galderisi, grazie davvero. Ciao. Ascoltatori, già adesso, Domenico da Parma, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Io non sono d'accordo con la vostra affermazione all'inizio della trasmissione che Sarri firmerebbe per uno 0-0 addirittura senza tiri in porta, e lo spiego il motivo. Io ho visto, sono tifoso del Napoli ovviamente da tanto tempo, anche dalla C, e io quest'anno ho seguito molto anche l'intervista del nostro allenatore, e l'ultima con la Lazio è stata un'intervista significativa, perché nel secondo tempo il Napoli non ha giocato il suo solito calcio ma ha cercato di controllare la partita, riuscendoci non del tutto, ma quello che ha fatto l'ambiente allenatore è che non si è divertito in panchina, cioè, e questo secondo me è il motivo per cui mancano ancora tante partite dopo scontro diretto, magari la terz'ultima, quart'ultima accetterebbe uno 0-0, ma sicuramente non senza tiri in porta, conoscendo Sarri preferirebbe tiri in porta. Io magari preferirebbe il 6-6 che ha detto Lippi, il 6-6, insomma, io credo, non credo che Pier, io credo che passerebbe volentieri un bel sabato sera di noia a Sarri. Sì, anche se secondo me se arriverà più due sarà anche un po' un'occasione per il Napoli, perché insomma, mentre in caso di vittoria della Juve o di pareggio il campionato rimarrebbe essenzialmente, da un punto di vista almeno aritmetico, matematico, veramente estremamente in bilico, c'è un risultato che può indirizzarlo da una parte, al di là del fatto che mancherebbero comunque tante partite. E quindi io penso che un po' di tentazione da questo punto di vista il Napoli ce l'avrebbe. Chiaramente sempre di giocarsi la partita di rimessa e contropiede, ma però insomma di accarezzare il desiderio di vincerla, questo sicuramente, perché insomma l'occasione sarebbe grande, eh? L'occasione sarebbe grande, appunto. Poi è ovvio che, come diceva ieri De Biasi, è un po' tipo una partita della Coppa Europea con Napoli che ha 2 risultati su 3, la Juve 1. Però cioè, è anche vero che alla fine manca talmente tanto tempo, mancherà comunque talmente tanto tempo. Che tu dici magari un rischio, poi anche un rischio calcolato, perché farti venire alla fine, voglia di... 2 risultati su 3 è vero che vanno bene al Napoli, però è anche vero che invece i 2 risultati su 3 dell'1x sono quelli che tengono in bilico il campionato. Ce n'è uno solo, l'eventuale vittoria del Napoli, che potrebbe veramente invece sparigliare in maniera molto significativa. Quindi vediamo, innanzitutto vediamo Carpi e Frosinone. Esatto, tra poco ne parliamo, anche perché io voglio, sono curioso di chiederti se in questo testacoda tu vedi qualche sorpresa, ma lo facciamo dopo la borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Et elle est la première italienne à remporter les internationaux de France, Francesca Schiavo. Gagnante l'hymne national italien. Eh sì, ha fatto suonare questo inno a Roland Garros, è stata regina di Francia e proprio contro la Francia torna ad indossare la maglia azzurra. Ciao Francesca Schiavone, grazie. Ciao ragazzi, come state? Molto bene, tu? Bene, bene. Abbiamo appena fatto il sorteggio. Cosa te ne sembra? Allora, io non mi schiero perché Tara contro, secondo me, la più forte in questo momento per loro, che è la Mladenovic. E poi c'è Giorgi, che è di qualità nell'ultimo periodo. Ha giocato, secondo me, buonissime partite sia contro Serena che contro Kerber. E giocherà con Garcia, sarà praticamente a cronometro, chi farà più vincenti vincerà. Io sono un pochino fuori, però sono il collante, credo, di tutta la squadra. E giocherai il doppio? Guarda, il capitano mi ha detto è una cosa riservata, non dirla, perché se arriviamo sul 2 pari ovviamente la tua presenza sarà fondamentale e poi lo vedremo insieme. Ma tanto non ci sente nessuno, quindi poi qualche centinaio di migliaia di italiani, ma non glielo diciamo, giuro che non glielo diciamo. Beh, ma lo sanno anche i francesi, lo sanno. Anche i francesi lo sanno. Pierluigi, ci sei? Sì, no, diciamo il contrario ai francesi, diciamo la bugia, perché il messaggio per gli amici francesi, quindi che succede col doppio, di il contrario. Che succede col doppio? Che non lo giochi? In nessun caso. Sul 4-0. Stiano tranquilli. In nessun caso. Con quanta voglia torna a giocare a giocare con la maglia azzurra, Francesca? Guarda, in questo momento secondo me a me serve tanto, anche perché loro hanno bisogno di una persona che ha un po' di esperienza, perché Giorgi le prime volte, l'altra ragazza la prima volta, Sara la conosco benissimo, però sai, quando manca una marcia la cerchi nella persona. E ho fatto allenare tutte le ragazze, oggi le conosco ancora di più. Io sono felice in questo momento di fare questo ruolo, anche se rimango una giocatrice, loro lo sanno, il capitano lo sa. Sì, certo. E gli ho detto qualsiasi cosa succede dimmelo, io sarò pronto per giocare anche il singolo. Certo. In che cosa è diversa la Fed Cup? Ovviamente anche la Coppa Davis, cioè è diciamo l'eccezione che conferma la regola, nel senso che è il momento nel quale uno sport individuale diventa però anche uno sport di squadra in cui si rappresenta anche la propria nazione, quindi con una responsabilità diversa, che ci vuole più esperienza, ci vuole... Che cosa cambia? Se cambia qualcosa? Sì, cambia assolutamente, perché sei a loro disposizione, nel senso che loro usano te per portare a casa il match, per portare a casa i punti che a loro servono, cioè l'Italia serve, e poi invece devi essere talmente concentrato e stare tranquillo che devi pensare a quello che hai da fare semplicemente tu. Quindi quando colpisci la palla è come se tutto il resto non esistesse, esistesse solo tu, capisci? E invece quando sei in nazionale questo tendi a dimenticarlo, perché ci sono gli altri, ti spingono, quindi devi vedere la parte positiva e quella invece che costa di più, perché è una responsabilità in più. Ma godi perché è carico, perché tutti sono lì per te, perché è l'Italia, perché la Francia non ce la deve fare. Sei in un'arena. No, tra l'altro questo è un weekend leone particolare, di confronti con la Francia. Sì, allora, dall'altra parte vediamo come va a finire, speriamo di non portare il solito pallottoliere, ma poi ne parliamo parte dopo. Tanti o pochi. Esatto. Qui invece possiamo prenderci una piccola rivincita. Posso chiedere una cosa a Francesca? L'ho sentita dire prima due volte con orgoglio: io sono ancora una giocatrice, mi sento ancora una giocatrice, però ti stai imparando un ruolo a metà, ibrido, insomma, comincia a immaginare qualcosa anche per dopo? Io gioco adesso. Sì, ma questo l'abbiamo capito. Sì, no, ho giocato, dico, l'ho spesa. No, non è vero. Però eravamo in lotta e mi rendo conto che distinto alle volte le direi: Sari, questa palla qua, spingila di più da una parte. Prima invece era: ehi, muoviti, tirami di qua, perché devo fare il vincente dall'altra parte. Quindi piano piano... Sì, un ibrido che ovviamente devo stare attentissimo, perché quando gioco il torneo e gioco il match devo pensare a me e a uccidere l'altro, altrimenti che ci sto a fare in campo. Però sì, sto andando in una direzione che è assolutamente nuova per me. È interessante, No, è molto interessante, mi viene in mente... Bella carica, la signora Schiavone. No, tra l'altro, se prima insomma non capivo tutto, pensa adesso che casino che c'è nel cervello. Ma la solitudine, quanto è una compagna di viaggio di un tennista o di una tennista? Perché la cosa che mi hai detto prima mi ha emozionato, no? Io penso che comunque alla fine, soprattutto all'inizio di una carriera, quando non ci sono tante attenzioni, quando non sei ancora particolarmente famoso, quando cominci dai primi turni dei tornei o magari dalle qualificazioni... La solitudine, il prenotarsi di aerei, cioè è un tipo di dimensione, secondo me, molto diversa rispetto a quella di altri sport. È verissimo, è uno sport individuale, noi siamo soli, sia in campo che un confronto a tu per tu, che quando ti alleni non è che c'è qualcun altro che può gestirti una situazione. Io ti do un input, però se tu non lo fai, il giocatore stesso non lo fa e rimane al livello più basso. Quindi aggiungere dei mattoni significa lavorare su noi stessi e mettere insieme la solitudine con il fatto poi di trovare 3-4 persone, il coach, l'amico, il fisioterapista, questo è fondamentale, perché abbiamo bisogno di appoggiarci su di loro. Però quando c'è da andare a scavare dentro, o lo fai o... è fondamentale stare con se stessi. Sì. Infatti è uno sport che... dico sempre, ti fa crescere tanto anche come persona, e forse in fretta. Infatti, i campioni, secondo me, sport di squadra. Beh, quando sbagliano gli altri mi girano le palle, sono sincera, quindi non so se sono fatta proprio per lo sport di squadra. Difficile comunque trovare, sei solo, anche perché è difficile trovare amici nello sport professionistico. Ha maggior ragione, già fai fatica dentro uno spogliatoio, cioè, figuriamoci girando l'agonismo è, sì è inutile far finta che non sia così, no, Fra? Confermi sì, cioè, grandi amiche lì dentro è un po' difficile averle. Sì. Io, Flavia, Sara, Roberto siamo compagne di viaggio, e poi però io faccio la mia squadra, tu fai la tua. Infatti io di amici nella mia vita ne ho così pochi che mi conto sul punto delle dita, poi uno è più predisposto o meno, io sono abbastanza solitaria. Senti, ma siamo un po' vicini all'anno zero del tennis femminile, tu li hai citati quei nomi lì, la Pennetta si è ritirata, insomma la carta d'identità penalizza un po' tutte quelle che sono rimaste, cosa c'è dopo di voi, che avete costruito un ciclo meraviglioso? Grazie, prendo i complimenti volentieri. Secondo me dopo ci saranno un po' di difficoltà, per un motivo molto valido. E la costruzione sotto, alla base, secondo me manca la scuola italiana. Mi manca, io vado ai circoli e non vedo un ordine in quello che si fa. Quindi tutto ciò che esce è talento e improvvisazione. Invece mi piacerebbe che nel futuro ci fosse un metodo nostro, come i francesi ce l'hanno, come gli americani li hanno. Adesso cerchiamo di costruire un metodo e secondo me tra 5, 6, 7 anni avremo nuovi campioni, sia maschi che donne. Per adesso al momento non ne vedo, però non giro tornei junior da dire ragazzi so, ho già visto alcuni atleti. Quindi per questo ciclo meraviglioso che avete costruito sono state brave le vostre mamme e siete stati bravi voi con il vostro talento? Ma secondo me sì, È andata così, sì. Cioè abbiamo avuto una gran botta di culo ad avere una generazione di tenniste come voi. Diciamoci la verità, È vero quello, e è vero anche che entrambe ci siamo tirate, sai, io vinco una cosa, quell'altro lo vuole vincere, e l'altro arriva prima 10 e tu vuoi superare, quindi questo fa molto bene, la competizione, uno che tira l'altro fa bene, sai, quando non c'è più invece, e per le altre che arrivano da dietro sarà più difficile. Francesca, grazie davvero, torna presto. Doppio non ne parliamo, i francesi non diciamo niente, saremo muti come pesci. Saremo muti come pesci. Ce n'è pas possible de jouer pour Francesca Monet, ce n'est pas disponible. Al massimo poi gli diamo la formazione della nazionale di rugby, al massimo la formazione della nazionale di rugby. Grazie Francesca Schiavone, ci fermiamo un attimo. Ci fermiamo un attimo per il traffico e poi torniamo. Paolo da Firenze, Alessandro dalla provincia di Venezia. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Tutti convocati. Buonasera Mancini. No, questa è una stronzata, bella e buona. Ma cosa? Ho detto che l'ho fatto, fine del discorso. Se vuole vedere il dito medio lo faccio, eccolo. Quando faccio una cosa la dico, se vogliamo far polemica facciamola. Mi sono anche tirato giù i calzoni davanti alla chiesa. Soddisfatta? No. Era la messa di mezzogiorno a Volpisello di Frocio nel Pienone. Io volevo chiedere quando faccio un'altra una cosa, la dico. Cosa. Lei non mi dice Frocio? Ma lascia stare mia sorella, grazie. No, nessuno ha detto niente sulla sorella. Perché Mancini. Mia sorella le fa schifo, lei è razzista. No. Che vergogna. Se lei va in Inghilterra una cosa così è una vergogna. Ho coperto io l'estate venuta al Campidoglio, va bene? No, lei che caffonata non me lo dice. No, no, io non mi permetterei mai di dire certe cose all'allenatore dell'Inter. Allenatore dell'Inter a chi? Che polemica. Se vuol far polemica, una cagata. Ma come, ci ha ridato Roberto Mancini? Ci ha rifatto? Un spettacolo, chi era? Crozza? Crozza. Oh, che genio assoluto, Che fenomeno è Crozza? Adesso facciamo un 30 secondi. Che roba è? È un alieno, sovrumano. Il grande talento di capire le sfumature, le parole da toccare. Anche perché secondo me è un grande imitatore, ma è soprattutto un... Cioè, le minacce dal punto di vista tecnico sono buone. Però è quello che dice. È quello che dice e come lo dice. La sfumatura, oltre ovviamente ai testi. Genio. Diciamo Carlos Santana usava le corde della chitarra, Crozza usa le parole allo stesso modo. Facciamo così. Sì. Diciamo Tele Santana, dai. No, Carlos Santana. Tele Santana. Paolo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Sai come dice Mancini? Ma in radio si cazzeggia. Lo sa, no? Dai. Paolo, dica. No, niente, innanzitutto volevo fare un in bocca al lupo, sono un tifoso romanista, Kevin Strootman, che sta per tornare in campo dopo mesi di calvario con la primavera, prima di entrare con la prima squadra. E volevo un attimino sapere, da parte di Pardo e da parte anche sua, un attimino, quale potrebbe essere il contributo potrebbe da Strootman tornasse ai livelli che conosciamo bene, soprattutto in vista a questo punto del prossimo campionato o per la parte finale di questo. E una vostra opinione sul cambio di comunicazione, finalmente, da parte di Spalletti, cioè vedere le conferenze di Garcia, di conferenze sia prima che dopo le partite di Spalletti è veramente qualcosa di... ci fa capire veramente perché casomai la Roma sta cominciando un attimino a macinare sprazzi di buon gioco e che mi fa insomma ben sperare per il futuro. Grazie mille. Grazie a lei Paolo. Allora, la prima mi sembra quella che la mia professoressa di italiano chiamava domanda pleonastica. Sì, perché ha avuto un infortunio grave, una ricaduta grave, una operazione sbagliata, insomma non perfettamente riuscita all'inizio, e quindi è un viaggio lungo e faticoso. No, lui, quando... lui dice quale sarebbe il peso di Strootman dovesse tornare quello là. Il peso se torna quello lì è doloroso, ma anche lo stesso Castan, se mai dovesse tornare il giocatore che conosciamo prima, avrebbe un peso enorme. Quindi assolutamente sì, insomma non è un caso che le cose migliori della Roma siano, di Garcia siano arrivate in concomitanza con il periodo in cui Strootman stava bene fisicamente, faceva la differenza. Per quanto riguarda Spalletti, secondo me sicuramente c'è un cambio di comunicazione. Spalletti ha delle sue ombrosità caratteriali, ma è un grande allenatore. Anzi, non so perché ho detto ma, perché alla fine le due cose non sono in contrasto. Alcuni messaggi secondo me li ha mandati, poi magari ti può far piacere far finta che non li mandi, però li ha mandati. La cosa più importante secondo me è quello che sta succedendo in campo. In campo io ho rivisto una squadra che ha voglia, che ha, al di là del fatto che poi sì, Sassuolo poteva pareggiare sul calcio di rigore, su questo non c'è dubbio, però è anche vero che la Roma la partita la poteva chiudere varie volte già nel primo tempo e nella ripresa con Salah, quindi sicuramente Sassuolo-Roma è un ottimo punto di partenza e si rivedono delle cose interessanti. Poi c'è il mercato, sono stati presentati adesso i nuovi. Ragazzi, Perotti sembrava l'altro giorno che giocasse nella Roma da, vero, sì, da 10 anni. O anche no, fortunatamente, perché poi alla fine, dal 60esimo in poi, era lui, El Shaarawy e Zuccanovic, c'erano i tre che correvano, gli altri otto questo, camminavano. Perché si è visto anche questo, purtroppo, cioè che effettivamente la Roma arriva al 60esimo e poi si ferma. L'ho detto varie volte durante questa stagione, o si decideva di dare forza a Garcia blindandolo al 100% senza ma, oppure forse bisognava avere il coraggio di fare questa mossa un pochino prima. Non è stata fatta secondo me perché si voleva aspettare la fine della stagione, perché si voleva puntare forte sul conto, quindi c'era un ottimo motivo per provare a non farlo. Però poi a quel punto io credo che il rimpianto nella testa di Sabatini sia stato di non aver osato dopo Roma-Genoa, se non addirittura dopo Roma-Bate-Borisov, che fu la partita terribile dal punto di vista del gioco, ma invece molto positiva dal punto di vista del risultato. Quindi era la partita perfetta perché la stagione andava avanti, ma con una base di partenza dal punto di vista tecnico che doveva essere per forza migliorata. Lì secondo me, col senno di voi, siamo tutti bravi, però forse lì la Roma poteva prendere una decisione. Non credeva più in Garcia, ripeto. Cioè, non credeva più in Garcia. Però mi sembra anche abbastanza evidente, sottolineava bene Giovanni, i danni che sono stati fatti. Che poi bisogna vedere a chi devono essere messi in conto. A chi devono essere messi in conto. Quello che vediamo è una Roma che non ha benzina dal punto di vista fisico e atletico. Quindi poi su quale conto debba essere messa questa scarsa condizione possiamo discuterne. A proposito di Roma, vi faccio sentire un Perotti, uno degli ultimi arrivati presentato. Per me essere qua è un orgoglio. Arrivare a una squadra così, così grande, mi sento veramente felice. Per me è un passo molto importante nella mia carriera, è vero che tutto questo è grazie al Genoa che mi ha ricevuto quando magari io non stavo così bene. Per quello che essere qua per me è un passo molto importante. Allora, non funziona più nulla. Alessandro, provincia di Venezia, buongiorno. Ah, buongiorno, sono con voi. Perfetto, allora, grazie della convocazione. Prego, grazie a lei. Allora, volevo tre cose. Una su Mancini, sull'Inter, perché sono interista. Chiaramente una sulla Juve, perché sono interista. Sì. E una un po' sul calcio, un perché, po' su di voi, interista. Posso permettervi. Perché interista? Sì. E poi solo una cosa, un grande Pier Pardo che mi fa impazzire sul FIFA 16, ma noi, mai nessuno te l'ha detto. Pardo. Sì. Qualcuno? sì, qualcuno. Talvolta. Qualcuno, ok. Allora, io volevo solo dire sul mancio, sul suo stress, no? Sul suo nervosismo, sarà mica che è in mezzo a quel casotto con mezza Roma? Può essere, prima cosa. Seconda cosa, una specie di bancarotta fraudolente, mi pare, insomma, per la nostra italiana. Però chiedo, seconda cosa, sulla Juve. Ed è legata alla terza domanda, cioè ad un calcio un attimino, no? Un po' più pulito, un po' anche per i bambini che guardano. È bello, chiedo, è bello sportivamente sentire una curva che ad ogni rinvio del portiere urla merda? Non è bello, dai, nel 2016 non è più bella questa cosa. In Inghilterra non credo succeda. E quindi non so, questo l'avrebbe detto anche Mancini. Esatto. Poi l'altra dovrebbe stare pure grossa, ognuno ha le sue. Ognuno le sue, però voglio dire, siamo tifosi, non siamo bestie, quindi dai, diamoci una calmata. Sono esseri umani che giocano, non sono delle merde, non facciamo più queste cose. Io mi vergognerei da interista. E così, io voglio bene gli juventini, è mio zio juventino, quindi non posso odiare gli juventini, ma odio queste cose che siano fatte all'Inter, al Sassuolo, al Chievo, non importa, no, non, piace, non è bello. Siamo d'accordo, in Inghilterra non succederebbe. E chiudo con l'ultima domanda, proprio credo che sia un aiuto al calcio, allo sport, ai giovani, no? Tutto quel famoso fair play. Sarebbe bello che anche voi giornalisti, come alcuni tra di voi, che se tu ti metti in pantofole a guardare un bel derby a casa, fai di quei salti mortali sul divano appena viene fuori un gol che non si può più. Cioè, ci sono dei telecronisti, hanno famiglia, sono grandi, sono adulti, sono uomini, hanno i bambini a casa, i figli che li guardano, e quando viene fuori una rete, cazzo, mi vibrano i vetri della casa, ragazzi, non si può più. Sono scalmanati, si infervorano come matti, urlano rete, urlano gol, urlano palo. Ma in Inghilterra non succederebbe, come Grigo, no, dai, ma come direbbe Mancini, come direbbe Mancini. Io lascio rispondere al telecronista, che non credo sia chiamato in causa direttamente. Mi sbaglio, Alessandro? C'è la Compardo? No, anche. Cioè, ce l'ha... No, ma facciamo nomi e cognomi, come farebbero in Inghilterra. Beh, allora, facciamo i nomi e cognomi. Ascolta, secondo te... Sì. No, vabbè, dai, secondo te sentire i piccinini ogni volta che c'è un gol, sentirlo urlare come un pazzo, ma ti pare bello? È un uomo, è un padre di famiglia, è un uomo grande, ragazzi. Siamo buoni un attimo. Ma cioè, cosa vorrebbe anche... Ma proprio lui! Tranquillo. Ma poi, Alessandro, certe partite ci faremo una bella pennica sul divano, Sono tutte le partite. Ho capito. Non urla sul gol, ma che deve fare? Tu sei un giornalista, sei un telecronista, cioè, non può. Quindi anche Guido Meda bocciato. Bocciamo anche Guido Meda, Flavio Tranquillo bocciato. Ascolta, ma quello là che urla, ma ti piace? Bello, ti domando, vi piace? A me fastidio, no, ma io poi è eminentemente questione di gusti. Cioè, guardi, c'è la telecronaca tedesca che è molto, molto così, dove dicono una parola ogni 10 minuti, arrivo un basso, magari. Io non dico, per carità, io la telecronaca la posso fare solo con adrenalina perché mi piace tanto quello che faccio e quindi non posso fare una telecronaca con la sordina. Cioè, no, non ma non, no, ma poi questo posso capire che possa anche non piacere in qualche caso. Però, insomma, in linea di massima anche il calcio va raccontato in un certo modo con l'emozione che merita. Sì, va bene, abbiamo finito l'ora. Adesso chiudiamo. Ciao Pier, sentiamo domenica. Ciao. Noi torniamo subito dopo il GR. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, dai. No, sì. Tutti convocati. Convocati. Inutile che vi dica che la telefonata di Alessandro ha scatenato una ridda di messaggi più o meno simpatici e gradevoli, tipo dite all'ascoltatore interista che non è neanche bello lanciare un piaggio da un anello di San Siro, no. O altre cose così. Giuseppe, buongiorno. Sì, eccomi qua, buongiorno. E io volevo... Voleva? Non so cosa voleva Giuseppe dalla provincia di Messina, ma adesso proviamo a farcelo dire cosa voleva. Paolo da Roma, eccomi qua. Dica. Volevo parlare di Ferrero. Io 2 mesi fa feci una telefonata lì, Private 24, dicendo che personaggi come Ferrero rovinano il calcio e che mi meravigliavo di come le televisioni, Sky, tutte l'avevano fatto diventare una cosa simpatica, gradevole, tutti intorno a insupparci. Ma noi ci dobbiamo ricordare, questa è una cosa annunciata e peggiorerà. noi ci dobbiamo ricordare, partendo da Borsano piuttosto da Ghirardi, piuttosto da questi, ma si può delle televisioni serie far diventare un personaggio positivo uno come Ferrero? Quello che sta succedendo a Ferrero era nei fatti, uno che sì, non ha ancora tirato fuori un euro per la società, sì, prende ancora i soldi da chi se n'è andato, fa il pupazzetto, è ridicolo, ma va come bene, si fa? Mi dica. No, come si fa? Ferrero certamente è un personaggio mediatico, stiamo leggendo di un procedimento che era ben noto da tempo, non so per quanto tempo ancora farà il presidente della Sampdoria, le cose sono lì da leggere, certamente è un personaggio mediatico, questo non vuol dire oscurarlo. Anche perché questo comunque è il primo banco di prova delle norme che sono state varate dopo il caso di Parma. Esatto. E quindi adesso vediamo se e come la Federcalcio le applicherà, se davvero Ferrero decadrà dalla presidenza della Sampdoria, che può voler dire tutto e niente. È più interessante l'altra parte, quella insomma, Garrone oggi è fuori sui giornali dicendo che ha saldato tutti i conti, che sì, sono oltre 70 milioni di euro alla fine, abbiamo letto altri 7, recentemente, pare, no? Insomma, in queste ore altri 7 milioni di euro, però un giorno ci sarà anche da chiedere se Garrone avrà voglia di spiegarci il perché di questa operazione, perché questa è una vicenda che ha due chiavi di lettura, per carità, Ferrero è quello che abbiamo imparato a conoscere, e qualcuno ad apprezzare di più e qualcun altro meno. I primi però sono i tifosi della Samp, che l'anno scorso impazzivano per Ferrero. Quindi, sì, ma sai, domani. E poi c'è l'altra chiave di lettura, che è quella dei Garrone, cioè capire perché si sono disfatti della Sampdoria in 4-4-8, almeno così è apparso. Pagando tutti i debiti. Pagando tutto e continuando dopo a pagare ancora. Sì. È una vicenda sarebbe che carino anche che venisse spiegato. Non ha tante chiavi di lettura, non ne ha proprio di chiavi di lettura. Cioè, o ci spiegano come sono andate le cose, quali sono i reali assetti societari, oppure è una vicenda che rimane misteriosa. Detto questo, Ferrero è, voglio dire, preso a piccole dosi, è gradevole da ascoltare. Questo non vuol dire che, come leggiamo sui giornali, abbia fatto anche lui i suoi mali affari e abbia ricevuto una condanna. Poi, quanto a rimanere presidente della Sampdoria, io non ne sarei così sicuro, insomma. Non so nemmeno se lo sia mai stato, possiamo dirlo. Bah, insomma, formalmente è lì. Formalmente. Allora, allunghiamo la palla. The Super Bowl is underway. Sharp looks, goes in the end zone, great catch by Mark McGee. Winning isn't everything, but it's the only thing. There is no second place. Either you're first or you're last. Namath has not been bashful this week, and he has said that the Jets are going to win. He doesn't even predict it. He said, I guarantee. The New York Jets are the world. Questo è lo spot del Super Bowl 2016 che si gioca nella notte di domenica. Daniele Caiola condurrà lo studio su Fox. Ciao Daniele. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, potresti anche sceglierti un po' meglio gli ospiti? Che ci sarà anche Giuseppe Cruciani? Come no, ci sarà Giuseppe. Sta scherzando. Sappiamo Giuseppe benissimo che è un vero malato di football. È incredibile, ragazzi. Giuseppe sa di football più di me e di tutti gli altri ospiti messi assieme, che sono dei signori ospiti. Insomma, Bebo Nori, che ha fatto la storia del football americano prima giocando e allenandolo in Italia e poi raccontandolo in TV. E poi c'è il nostro Nicola Ruggero, che insomma c'era anche l'anno scorso e che userà la sua chiave per raccontare delle storie, Nick Graffiti, insomma, storie di passati di football per gli appassionati, ma anche per chi non lo conosce, che quindi inizierà a innamorarsi di questi protagonisti e anche soprattutto di quelli del passato. Sì, ci sono tante storie come al solito dentro al Super Bowl, dentro alle grandi partite. E poi perdonami, c'è Roberto Gotta lì a Santa Clara, certo, che è forse il nostro valore aggiunto più importante, che abbiamo finalmente avuto la possibilità di mandare una persona lì che, insomma, ragazzi, è come andare a Disneyland. Sì, posso immaginarlo. Dicevo, dentro questa partita ci sono un sacco di storie. Denver Broncos, grande difesa e un quarterback leggendario come Peyton Manning, all'ultima esibizione della sua carriera, a 39 anni se non sbaglio. Sì. E dall'altra parte l'attacco atomico dei Carolina Panthers con la nuova stella, invece, tra quello che mi diceva prima Cruciani potrebbe essere la leggenda dei prossimi 10 anni, Newton. E forse apriremo una finestra sul futuro del football e sbirceremo, perché Cam Newton, che verrà nominato domani MVP, non è molto complesso, no, immaginarlo. La nomina non è molto difficile da scegliere. No. È stata una stagione incredibile. Se tu pensi che a inizio stagione, quando Kevin Benjamin, che è il miglior ricevitore di Carolina, è andato KO per tutta la stagione, diciamo, grossa parte degli analisti pensavano ad un'annata forse neanche da playoff di Carolina, e invece Cam Newton non solo è arrivato al Super Bowl, ma ci è arrivato con un record nella stagione regolare di 15 vinte e una persa, e una persa è stata episodica contro Atlanta, giocando un football pazzesco, 50 touchdown fra le sue corse, che sono state 10 e che non arrivava in doppia cifra dalla prima stagione, quando entrò nella Lega come un petardo, insomma, 14 touchdown di corsa. Per un quarterback afroamericano, diciamo, è un po' la caratteristica di questo tipo di quarterback, ma 35 touchdown di lancio, no, significa che hai un braccio atomico e che hai comunque anche una squadra attorno e una linea di difesa che è molto sottovalutata, che è stata strepitosa, soprattutto nella finale di conference, dove ha fatto la differenza contro un altro attacco molto forte come Arizona. Ed è da qualche anno, insomma, non si verificava, il miglior attacco Carolina contro la miglior difesa, che ha, insomma, qualcosa ne ha assaggiato Brady in semifinale, ha demolito letteralmente i campioni in carica, la difesa di Denver. Ed è il paradosso, il miglior attacco contro la miglior difesa era esattamente quello che è successo in due Super Bowl fa, quando Manning guidava il miglior attacco allora di Denver contro la miglior difesa Seattle e fu spazzato letteralmente via. E chi vince di solito fra miglior attacco e miglior difesa? No, perché noi nel calcio siamo abituati alla retorica che la miglior difesa è quella che ti fa vincere. Sì, ma in America, alla fine dell'anno, in America dicono la difesa, l'attacco fa vendere i biglietti, la difesa vince le partite. Esatto, ed è così teoricamente. Certo, un attacco di questo tipo non sarà mai visto, per cui i favori del pronostico, allora, questa è una finale innanzitutto non pronosticata, 156 a 1 credo fosse la quota di chi voleva scommettere su Denver Carolina come finale del Super Bowl a inizio stagione. Quindi Cruciani, che conosce tutto, ha scommesso, no? Sicuramente l'ha presa. Adesso glielo chiedo, appena lo vedo glielo chiedo. E dall'altra parte, guarda, la favorita sicuramente è Carolina, ma abbastanza netta. Però c'è questa statistica, per esempio, un quarterback che ha avuto i numeri che ha avuto Cam Newton in stagione, 50 touchdown nel corso della stagione fra corse e lanci, è successo 3 volte che sia arrivato al Super Bowl e tutte e 3 le volte, questa è la terza volta, nelle 2 volte precedenti ha perso con un passivo di oltre 40 punti. Quindi tecnicamente dire che sia un Super Bowl segnato è molto rischioso, soprattutto perché se Denver gioca la partita che ha fatto 2 settimane fa contro New England, cioè, prima o poi le mani gliele mette addosso a Cam Newton, no? Nelle statistiche credo Brady sia stato colpito 20 volte nel corso della partita ed è una cosa mai successa nella storia del football americano, di una violenza inaudita. Von Miller, DeMarcus Ware, Talib, che era il grande ex che poi ha fatto la giocata decisiva intercettando quella trasformazione a 2 punti. Poi è chiaro, la vittoria è stata episodica, su una giocata, in realtà su un calcio, su una trasformazione sbagliata nel corso del primo tempo. Però questo è il fascino del football. L'anno scorso il Super Bowl è stato deciso all'ultimo secondo da una giocata di Butler, quando tutti pensavano che Seattle avrebbe vinto, e incredibilmente poi è arrivato quel successo e ha capovolto la situazione. E spesso quelli che entrano con il pronostico non escono con il trofeo in mano. Giovanni, ma Augusto, tu sei per la leggenda Peyton Manning, ultima partita, questo finale da romanzo sportivo, o per una grande star nascente? No, guarda, io sto sempre coi quarantenni. Sei sempre coi quarantenni. Se non altro per affinità generazionale. quindi vorresti vedere Peyton Manning entrare nella leggenda. Sarebbe bello. Tra l'altro spesso è capitato, se non sbaglio, in passato, che invece queste uscite al Super Bowl di grandi stelle non sempre siano andate benissimo. No, infatti. E c'è sempre un po' di malinconia, quindi perché? Newton vincerà dall'anno prossimo. Sì, magari ne vince 7-8, però questo lo diamo al vecchio Peyton Manning e lo accompagniamo nella leggenda. Facciamo così? Daniele. Ma anche perché ha una storia legata ai Super Bowl sfortunata. Peyton Manning ne ha vinto il primo dopo 10 anni di carriera, quando insomma iniziavano a mormorare tutti, a dire ma questo sì è forte, però non vince mai. E poi ha perso gli altri due, ha una famiglia, insomma, è una tradizione di quarterback, il fratello Eli, che ha vinto più Super Bowl di lui. Sì. Papà, che era insomma il primo quarterback della famiglia. Tra l'altro il fratello maggiore, che poi non ha fatto una carriera da professionista, ed è una delle tante storie che raccontiamo, insomma, ve la do in anteprima, il fratello subì da ragazzo al college un infortunio molto grave al collo che lo costrinse ad abbandonare, e Manning, l'unico infortunio in carriera grosso è stato proprio quella lesione delle vertebre che ha subito qualche anno fa, che gli è costato una stagione e che sinceramente ha trasformato poi il Manning giocatore che era prima in un giocatore completamente diverso da adesso. È un miracolo che sia tornato a giocare, è un miracolo che giochi ancora così, è sicuramente, io credo, 40-45% di quello che era Peyton Manning. Però come detto, ha davanti una buona linea d'attacco, ma soprattutto una linea di difesa pazzesca. Sì, certo, certo. Sarebbe una storia bella, sarebbe onestamente una storia bella, ecco, dovesse finire con un trionfo, anche perché la storia di Manning legata al Super Bowl è una storia sfortunata, per cui certo, pensando a Cam Newton ti immagini, come dicevano a LeBron James qualche anno fa, ma tanto tu prima o poi vincerai, insomma. Certo, puoi aspettare ancora un attimo. Ci però divertiamo tutti, sono rapaci. Sì, ci divertiamo tutti dalla mezzanotte e mezza di domenica, corretto. Dalle 11 se volete. Alle 11 con lo studio prepartita. Prepartita, insomma, parleremo. Poi chi canta Coldplay nell'intervallo? Coldplay e Beyoncé. In realtà sì, sarà uno show spettacolare, ma diciamo che, se mi permettete, dalla fetta di Janet Jackson l'Halftime Show è un po' cambiato. Insomma, non ci saranno colpi a sorpresa, per cui vanno sui grandi gruppi che sanno che non... Tutto tranquillo, non creano problemi, niente tette al vento, niente vestiti che cadono, solo musica in attesa della ripresa del gioco. L'inno nazionale cantato da Lady Gaga anche. Lì vediamo, magari la sorpresa potrebbe scapparci. Magari sì. Sorpresa sull'inno americano, io sarei discretamente entusiasta. Ciao Daniele, buon lavoro. Ciao ragazzi a voi. Ciao, grazie. Ciao. Daniele Camera di Fox. Mi ha raggiunto Giacomo Bagnasco perché se la palla rimane bislunga. Sì, la palla si è allungata. Si è allungata con il Super Bowl. C'è l'altro confronto che abbiamo accennato tra Italia e Francia, non solo nel tennis, non solo con la FECA, ma naturalmente con l'inizio di un Sei Nazioni che noi, non solo noi alla radio, ma l'intero gruppo del Sole 24 Ore seguirà con particolare attenzione, grazie soprattutto a Giacomo Bagnasco. Tra un attimo Giuseppe, la provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Vi seguo sempre. No, ne approfitto anch'io per ricordare a tutti gli appassionati che domani inizierà Sei Nazioni di rugby con uno stupendo Italia-Francia. Ci sarà il trofeo Garibaldi in palio. Io penso che comunque quest'anno ci leveremo delle soddisfazioni perché l'Italia è molto ringiovanita, ci sono dei ragazzi italiani che appunto hanno fatto il percorso nelle giovanili e che quest'anno potranno mettere in mostra le loro qualità e sicuramente saranno motivati. Quindi volevo appunto ringraziare tutto il movimento, a partire dalle accademie Under 18 che stanno dando una linfa importante. E stasera c'è comunque l'Under 20, sempre Italia-Francia, in cui ci sarà un ragazzo del club dei giovani miei figli, Settimo Re di Torino, e volevo fare un augurio anche a lui e a tutti i ragazzi impegnati. Do, evidentemente, c'è Eric solo Do. Un ragazzo del Settimo Re di Torino. Sì, Eric Do. Facciamo vedere che seguiamo anche l'Under 20. Beh, lei è molto, molto ottimista, Giuseppe, grazie. È molto ottimista, si gioca contro un'Italia profondamente rinnovata anche in un momento di transizione, visto che il commissario tecnico è in uscita e questo si conosce. Dall'altra parte ritroviamo invece un altro commissario tecnico francese, Berbizier, che Kino Vess. Sì, della però, Francia. Però ritroviamo Berbizier che dice che la Francia si imporrà con almeno 30 punti di scarto. Ma l'ultima volta è finita 30-12 per la Francia ai mondiali e devo dire probabilmente la partita più brutta della Coppa del Mondo. Quello che ha detto il signor Giuseppe è vero quantomeno riguardo al ringiovanimento della squadra, un ringiovanimento che purtroppo non è dovuto solo a scelte tecniche ma anche ad assenze. Tutto sommato, se c'è un momento per mettere i giovani, è il primo anno del quadriennio del Sei Nazioni. Neanch'io ho l'ottimismo del signor Giuseppe, però sarebbe bello che qualcosa succedesse. E dall'altro canto c'è anche da dire che pure la Francia mette in campo 4 esordienti, quindi probabilmente rimarrà in teoria e anche in pratica la differenza sostanziale che di solito c'è. Vorrei sperare che 30 punti fossero un po' troppi, anche perché qualche sorpresa potrebbe arrivare. Certo, anche i francesi hanno delle soluzioni curiose. C'è un giocatore figiano che ora gioca nella Francia e che non ha un club di appartenenza. Se tu guardi, tra parentesi, dopo il suo nome c'è scritto FFR, cioè Federazione Francese della Rugby, perché lui gioca solamente, da due anni a questa parte, gioca solamente a rugby a 7. È una stella del rugby a 7, e però Noves ha detto io lo voglio vedere e quindi voglio come provarlo. Mi rende sul campo. No, il campo è uguale. Ma salutiamo il professor George Cost. Buongiorno George. Buongiorno. Hai sentito Bagnasco cosa diceva? Sì, ho sentito. Hai letto cosa ha detto Berbizier? Sì, ho letto i giornali, come lo leggo ogni mattina. Noi leggiamo l'Equipe, il Breviario Sportivo della Francia. Dunque ho letto un po' quello che ha detto. Speriamo che, anche se fosse questo risultato, sia una partita interessante e promettente di ogni parte. Giorgio, intanto abbiamo un amico, uno che è stato con noi per un anno intero, Costa, ti ricordi qualche anno fa? Se parliamo del Movimento Azzurro, è l'unico CT che ci ha portato a vincere in Francia contro la Francia. Non mi sento bene. È il CT che ci ha portato nel Sei Nazioni. È il CT che ci ha portato nel Sei Nazioni. Io però la prima cosa che vorrei chiedergli è un po' extra sportiva. George, riapre lo Stade de France dopo il 13 novembre, quei terribili momenti. Cosa succederà? Come reagirà il popolo del rugby? Ci sarà festa come sempre? Ci sarà un po' di paura? No, diciamo che il tempo è passato, la fiducia è ritornata, è un evento il Sei Nazioni, è un evento particolare, penso che la gente verrà veramente al campo per vedere la partita senza pensare a qualsiasi cosa, perché sennò ci pensiamo sempre queste cose qua, non viviamo più. Sappiamo certo che in ogni momento, in ogni parte del mondo qualcosa può succedere, però tutto quello che riguarda la sicurezza è stato veramente, diciamo, messo in piazza, e speriamo che tutto andrà bene e che la gente verranno senza nessun timore, senza nessuna apprensione. L'Italia ha un allenatore francese in scadenza, la Francia ha un allenatore francese nuovo, Guy Noves. E io avevo interrotto impropriamente Carlo, che invece stava facendo un altro ragionamento. Tutti gli altri quattro allenatori sono dell'emisfero sud, un australiano e tre neozelandesi. C'è qualcosa di strano in tutto questo, secondo te? Beh, l'influenza dell'emisfero sud è abbastanza importante, grande, nel senso che è il rugby che è praticato per la New Zealand e l'Australia sono veramente i rugby i più evoluti, i più belli, i più, la ricerca è veramente profonda, semplice innovazione, hanno questa capacità, a mio avviso, di collegare sia efficacia e spettacolo. E questo è importante nel mondo di adesso, perché il rugby è diventato un prodotto che si vende, e tu non puoi andare adesso in campo senza avere l'idea, certo, del risultato, ma anche di dare piacere al pubblico, sennò qualcosa è sbagliato qualche parte. Dunque c'è una un'influenza evidente dell'emisfero sud, e per quello che un neozelandese in Scozia, un neozelandese in Irlanda. Un neozelandese in Galles e un australiano in Inghilterra, ma solo la Francia e l'Italia mantengono, diciamo, allenatori europei, due francesi di ogni parte. Non dimentichiamo comunque che l'Argentina, che ha fatto un mondiale stupendo, è un argentino che allena, Non dimentichiamo, anche se ogni tanto c'è un passaggio sia di un francese, Galtier, sia di un neozelandese, Graham Henry, che sono passati, però il nucleo del staff argentino. Grazie Giorgio, in bocca al lupo, ci sentiamo nel corso del Sei Nazioni. Torneremo. Speriamo bene, George Cost. Cosa chiediamo a questo Sei Nazioni? Con una squadra profondamente rinnovata, realisticamente, con una squadra rinnovata e con un allenatore, dicevamo, in uscita. Guarda, io mi sono dimenticato, sono passato alla mensa del Sei Nazioni, volevo presentarmi qui, andare dai cuochi, presentarmi qui con un cucchiaio di legno dicendo lo teniamo qua in studio e lo rompiamo alla prima occasione. Io penso che si riesca a romperlo, cioè a vincere una partita. E oggettivamente è quello che si può chiedere. L'allenatore in scadenza, secondo me, è una cosa poco logica. Sì. E comunque si sa già chi sarà il nuovo allenatore. Non sarà dell'emisfero sud, ma non sarà nemmeno italiano. Non c'è mai stato un allenatore italiano da quando l'Italia è nel Sei Nazioni. Sarà Conor O'Shea, un irlandese. E speriamo che... Sicuramente è un grande allenatore, allena gli Harlequins in Inghilterra, eccetera. Speriamo che non succeda come è successo ad altri allenatori stranieri, cioè passano due anni, allargano le braccia, sì. Come io qui. Come ha fatto il sopracitato Berbizier a suo tempo. Sì, Berbizier diciamo che comunque perlomeno ha detto io allora me ne vado, e sì, c'è chi invece poi è rimasto altri due anni. Esatto. Ma con tutto il rispetto per super tecnici, ci mancherebbe altro. Senti, ci ritroviamo domenica, no, Giovanni? Ci ritroviamo domenica 17-19, ci ritroviamo anche con rugby, ovviamente, per commentare quello che sarà stato di Francia-Italia. Poi abbiamo in campo... Poi abbiamo il duello tra le squadre di Lotito, Lotito Boys e Juventus e Napoli. Avremo il Milan, avremo un sacco di cose da raccontare. Molto bene, grazie Giacomo Bagnasco, ci ritroviamo ovviamente per... tutto il corso di Sei Nazioni, il venerdì, la domenica, nei GR, sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole, ovunque, Sei Nazioni, ovunque. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bini in redazione, sentiamo domenica, ciao. Cuore Denari è una grandissima situazione che potrebbe essere molto molto positiva per me, per la mia famiglia, non ci sposteremo di molto, ma io in Italia non voglio, non me la sento di indossare altre trasmissioni.